Eccoci con Valentina D'Andrea per parlare dello spettacolo L'una dell'altro, che sarà in scena qui a Roma al Teatro 2 dal 23 al 26 all'interno di Do It Festival. Intanto no. Pronto? Non è Do It Festival. Do It. No. Si chiama lei, attraversamenti in territori femminili. Sì, okay. Vabbè. Si sbaglia, okay. Questo problema è praticamente organizzato dal Teatro 2, appunto, in collaborazione con Società per Attori, mentre okay. Il Duit è un altro festival, okay, che non ricordo dove si tiene quest'anno, ed è organizzato invece da Angela Talesca, che sì, ha lavorato per molto al Teatro 2, quindi probabilmente c'è accavallato le informazioni, sì. Esatto, va bene. Tra l'altro Angela l'abbiamo sentita la scorsa settimana. Allora, okay. Sì. Teatro 2, intanto mi fa piacere che qualcosa si svolga lì, perché questa stagione credo sia stata complicata. Sì, perché comunque sono stati tolti finanziamenti da parte del Ministero, però è un teatro che resiste e si respira, infatti, quest'aria di resistenza, perché c'è veramente una bella energia, no? Della serie, si sono rimboccati le maniche, in un modo o nell'altro lo stanno facendo vivere. Tra l'altro, lo spettacolo precedente al mio, La Merda, di Silvia Gallerano, ha raccolto un'adesione pazzesca, era sempre pieno, il telefono continuava a squillare, quindi voglio dire... Tra l'altro è stata nostra ospite proprio con quello spettacolo qui al Radio Teatro, quindi conosciamo bene. Perciò, nonostante quello che si pensava quando appunto hanno tolto questi finanziamenti, cioè alla morte, alla chiusura, e invece io ci sento proprio la vita, ok? Quindi bene. Senti Valentina, allora parliamo a questo punto, prendiamola alla larga, partiamo da questa rassegna che ho confuso all'inizio, allora parlacene un po' tu. È una rassegna che, appunto, lo dice il titolo stesso, lei, che vuole attraversare appunto la testa, il cuore, la fantasia, i sogni, la rabbia, le bestemmie che l'essere umano in generale, in particolare il femminile, che è più contenitivo in un certo senso, perché noi siamo appunto predisposte alla creazione organicamente, e vuole appunto raccogliere diverse forme d'espressione, quindi diversi spettacoli in cui questi sentimenti, queste percezioni femminili prendono una forma concreta, lo spettacolo. Per cui non so, prima di Silvia c'è stata anche Luana Rondinelli con una trilogia in siciliano, da Tadrarite a Testa Sutta, e anche lì si parla di Sicilia. Ci fa piacere, perché tra l'altro hai nominato due spettacoli che sono stati anch'essi qui alla Radio Teatro, quindi torna tutto benissimo. Sì. E il bello è che appunto poi ognuno ovviamente presenta il tema che insomma più gli è caldo, no? Quindi vediamo attraverso gli occhi, sì, di donne una lettura di un aspetto della realtà, sì, appunto, sì. Nel mio caso L'una dell'altra si parla di narcisismo, ok? Quindi cerchiamo, diciamo, io e l'altra attrice, le due protagoniste, Lucy e Pina, si fanno un viaggio che è un viaggio interiore. Infatti a tratti, anche quando lo recito insieme a lei, mi sembra davvero che siamo quasi due parti di una stessa persona. Mm? Sì. Sembra che non siamo due personaggi staccati, ma come se l'una e l'altra parte di un essere umano a un certo punto si mettono a parlare, come se fino a un certo punto della vita sei stato bianco e a un certo punto ti si siede accanto in una notte, aspettando il notturno, ti siede accanto l'altra parte che vuole comunicare con te. mesi, e con grande difficoltà ovviamente di relazione. Sì, sì. È uno spettacolo che parla di narcisismo perché il narcisismo è diciamo la patologia più diffusa oggi. Siamo nella società dell'immagine e tutti quanti, anche a causa un po' dei social, insomma, tutti quanti siamo cerchiamo di avere attenzioni in un modo o nell'altro, siamo proprio carenti di attenzioni, forse in realtà siamo carenti un po' d'amore, no? Sì. E ce le andiamo a cercare in diversi modi, con diversi mezzi, e c'è chi le richiede in modo spudorato, come per esempio uno dei due personaggi, che è appunto Lucy, che si butta in mezzo alla pista, è una che si dà, è una che non ha limiti, non ha regole, una che cammina a gambe larghe, proprio te la dico così, ok? È una che si fa vedere, si fa notare, e l'altra invece, che si siede a gambe strette, è esattamente il contrario, è l'altra forma di narcisismo. Lucy è una narcisa overt, l'altra è covert, cioè chiede attenzioni, ma le chiede mettendosi al di fuori della pista. Ok? Sì. Io non mi guardate, non mi guardate, ma in realtà guardatemi, guardatemi. Nel silenzio sta chiedendo in realtà anche lei la sua dose di amore, direi. Senti Valentina, sì. Sia per la scrittura che poi per la messa in scena, da dove è partito tutto e come ci hai lavorato? Allora, è partito tutto perché parlando con mia sorella Alessia, che è una psicologa bioenergetica, parlando appunto di una generazione in panico, in un certo senso, no? Che è la generazione nata negli anni Ottanta, ma mia sorella mi faceva notare anche le nuove generazioni, quindi quelli più giovani sono ancora di più esposti al panico. Che cosa, quindi mi ha interessato parlare di questa cosa e soprattutto scoprire attraverso di lei, attraverso mia sorella, attraverso la bioenergetica, che è una branca della psicologia che lavora sul corpo, in particolare sul respiro, per cercare di sanare dei blocchi emotivi che ognuno di noi ha subito durante l'infanzia e che poi vanno ad influenzare le nostre relazioni, qualsiasi tipo di relazione sia, quindi dal lavoro all'amicizia, all'amore, cioè mettersi in relazione con una persona, spesso non lo sappiamo fare, ok? O si fugge o si divora l'altro, non riusciamo a stare di fronte a una persona, a mediare, a confrontarci, a fare un passettino l'uno verso l'altro, ok? A lavorare anche sulle sfumature, che è probabilmente un po' il senso della vita, cioè che è la continua scoperta e non appunto la chiusura totale oppure la invasione totale. E parlando con Alessia, lei mi faceva notare come il panico, perché io le dicevo: mamma, l'altro giorno ho sentito un ragazzetto che diceva ad un altro: oh, ma tu l'hai avuto l'attacco di panico? Sì, io l'ho avuto, pure io, no? Come se fosse quasi una, non lo so, una moda. E le dicevo: ma da che cosa deriva? Le chiedevo. E lei, io pensavo che derivasse da una paura, no? Perché il panico lo associ immediatamente a una paura. E invece lei mi fece notare che no, che in realtà nasce da una vergogna. L'attacco di panico arriva nel momento in cui una persona in un certo istante non sta facendo nulla, quindi non ha gente intorno con cui comunicare, che in un certo senso la riporti a terra, e come se si svuotasse, perdesse il contatto con la realtà, e come se volesse scomparire, perché non sa in quel momento chi è. E sempre lei mi spiegava perché una persona a un certo punto della sua vita arriva e se si domanda chi sono non lo sa, perché diciamo la generazione dagli anni 80 in poi, ma forse anche prima, non lo so, io quella ho vissuto e quindi di quella posso parlare. È stata un po' cresciuta con a sogni, mm-hmm. Devi diventare, devi studiare, diventi dottore, devi fare questo e diventi. Quanto hai preso a scuola? 7? No, non basta, di più, sempre di più, no? È una rincorsa continua ad un'immagine che non esiste nella realtà. Mm-hmm. È una cosa mentale, ecco perché siamo completamente nella testa, abbiamo perso totalmente il contatto con il corpo. Noi siamo quelli che devono dimostrare di continuo. E in questo, quindi, cioè, da una parte i genitori un po' ci hanno educato a questo, per cui cioè, non ci hanno dato un amore incondizionato. Amore incondizionato significa: amore mio, sei bello così come sei, questo potevi fare, questo hai fatto, magari domani farai qualcosina in più, ma se non lo fai non importa, va bene lo stesso. Così. Va bene così, no. Quindi da una parte i genitori, poi tu immagina questi bambini che siamo noi, cresciuti così, con questa richiesta continua di fare, di essere, di eccetera eccetera, incontrano una società che è la società dell'apparenza, sì. In cui tutti quanti ormai siamo, io sono attrice, ma in realtà un po' tutti quanti lo siamo, guarda, apriti un Facebook, cioè chiunque ha quest'ansia continua di pubblicare di qualsiasi cosa, cioè sto mangiando questo, sono andato 34 volte al bagno, morto il gatto, non so, qualsiasi cosa, no? Perché abbiamo bisogno proprio di siamo cresciuti così, cioè a dover dimostrare e dimostrare. Mm-hmm. Quindi nel momento in cui spegni i social, non c'è nessuno che ti guarda, non hai riconoscimento degli altri, sei in un momento invece di solitudine, di stasi, boom, crollo, ecco. Panico. Ok. Allora ricordiamolo, l'una dell'altra, dal sì. 23 al 26 di marzo, quindi da giovedì, al Teatro 2 qui a Roma, sì. In scena Valentina D'Andrea e Flavia Germana Delipsis, grandissima compagna di come scena, no, proprio come grande, no. La conosciamo, la conosci? Io guarda, ogni giorno che lavoro con lei dico: ma quanto sono fortunata, dico, perché si ride, nonostante appunto il tema sia comunque abbastanza pesante, però lo spettacolo è anche molto ironico, ovviamente, se no diventa a parte che queste cose si portano dietro, cioè i temi tragici si portano necessariamente dietro una bella dose di ironia, e Flavia in questo aiuta tanto devo dire. E sì, quindi dal 23 al 26, dal giovedì al sabato alle 21, no? La domenica alle 18 invece, Teatro 2, Vicolo dei Due Macelli, Roma. Benissimo. 37, numero 37. Un abbraccio e a risentirci presto, Valentina. Grazie, grazie. Ciao, ciao, a presto. Ciao a tutti. Ciao.